Prima edizione. Sei, 13 minuti e 20 secondi, un paio di notizie arrivate nella notte. La prima ci arriva dal Pakistan, dove le fonti della sicurezza sostengono che uno dei maggiori leader dei settori estremisti islamici pakistani sarebbe stato ucciso. Si tratta di Hakimullah Mehsud, leader del Tehrike Taliban Pakistan, morto giovedì nell'attacco di un drone della CIA nel Waziristan settentrionale, e questo nonostante una categorica smentita di un portavoce del movimento secondo il quale il leader è a quanto pare sano e salvo. E questo il quadro per quanto riguarda il Pakistan, dove tra l'altro oggi è una giornata cruciale perché ci sono tre appuntamenti sui quali sono puntati gli occhi degli osservatori responsabili politici, fra cui un'udienza della Corte Suprema che riguarda la apertura di processi per corruzione che coinvolgono anche il presidente Zardari. E poi c'è un dato economico che arriva dal Giappone. Gli ordini di macchinari hanno segnato a novembre un balzo mensile del 14,8%, una stabilizzazione degli investimenti dopo i problemi legati alle inondazioni in Thailandia e alla crisi del debito europeo. Adesso la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione. Sono le 6, 16 minuti e 21 secondi. Veniamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo, direi, senza dubbio dal Corriere della Sera, e approfondiremo anche un po' questa mattina, perché al di là del guardare solamente la prima pagina, perché il Corriere della Sera sembra avere la notizia del giorno. Allora, il titolo principale è il grande naufragio per un piccolo favore. Mentre i sommozzatori lavorano nel ventre della Costa Concordia alla ricerca di altri sopravvissuti che potrebbero essere rimasti intrappolati. E qual è questo favore? La nave si sarebbe avvicinata al giglio in omaggio al maître e a un vecchio ufficiale. L'allarme mai lanciato, e poi trovati i primi due corpi nel relitto. I dispersi, dice il Corriere, sono ancora 17. Andiamo all'interno, perché vale la pena in questo caso approfondire la cosa. Scrive Marco Imarisio che non è stato neppure un gesto di riguardo per i passeggeri, loro non c'entravano nulla, dagli altoparlanti non è uscito un solo annuncio sul giglio, è stato un gesto autoreferenziale, l'applicazione di un codice di cortesia interno all'equipaggio. L'imperdonabile leggerezza del comandante, la definizione di Francesco Varusio, procuratore capo di Grosseto, voleva essere al tempo stesso un omaggio a Mario Palombo, una leggenda tra i comandanti della Costa Crociere, e un favore all'unico gigliese a bordo, il capo maître Antonello Tievoli. Scrive ancora Imarisio che ci sono brave persone che diventano vittime inconsapevoli della stupidità degli altri, e Tievoli racconta. Si racconta, dice: Antonello, vieni a vedere che stiamo sopra il tuo giglio, gli hanno detto. Forse era anche una presa in giro amichevole, perché il capo dei camerieri doveva scendere dalla nave la settimana precedente, ma non era arrivato il rimpiazzo ed era dovuto restare a bordo. Lui si è affacciato, ha guardato, ha visto, non ha ruoli in macchina o in coperta, ma ha gli occhi per guardare. Attenti che siamo vicinissimi a riva, ha detto al comandante. Troppo tardi. Questo il racconto che viene riportato dal Corriere della Sera, e sicuramente se ne parlerà moltissimo oggi. Noi della vicenda parleremo più avanti, sentiremo anche un esperto di navi per capire poi come mai una nave così grande, una nave enorme, sia potuta nonostante tutto affondare in quel modo. Il titolo dell'editoriale mi sembra abbastanza chiaro, è di Pierluigi Battista, e adesso Severità. Si parla anche, c'è un titolo dedicato anche a Manrico, l'eroe e l'elicottero Drago 412, ne abbiamo parlato poco fa, e poi l'accusa della Guardia Costiera, i dubbi sui soccorsi, il comandante rifiutò di tornare a bordo ad aiutare i passeggeri, pezzo a firma di Fabrizio Caccia. Ci sono altri commenti, basta mastodonti nella cristalleria di Fulco Pratesi, chiaramente un pezzo dedicato alle navi da crociera che girano nel Mediterraneo. Come sapete, la polemica si è rinfocolata e si parla anche naturalmente per esempio di Venezia, il fascino comodo della crociera di Mauro Kovacic e quei capitani tra mito e sogno di Armando Torno. Gli altri titoli del Corriere della Sera sono veramente pochi, rimane poco spazio per il resto. Uno è dedicato al derby, un gol da principe derby all'Inter, Milito rilancia i nerazzurri, la Juve resta solo in testa con un punto sul Milan, poi Milano alla prova dell'area C, Pisapia che dice alla fine vivremo meglio, e poi l'addio a Fruttero, alter ego, così scrive il Corriere, di Lucentini. La Repubblica, Concordia, una notte di errori e bugie, la Guardia Costiera ordinò al comandante di tornare sulla nave, trovate altre due vittime, salvato l'ufficiale eroe, rischio ambientale per l'isola e polemica sulle rotte delle crociere. Dalla scatola nera, la verità sul naufragio, la Costa ha sbagliato il capitano, i dispersi sono 17. L'inchiesta che dice a bordo tutto ok e l'allarme non partì, e poi Salvatore Settis che chiede nuove regole per quei colossi. Gli altri servizi sono a firma di Adriano Sofri, un racconto, il bimbo e le coperte del Giglio, e poi la storia, le foto dell'agonia blu di Vittorio Zucconi. Di taglio basso la politica, con oggi il vertice con Alfano, Bersani e Casini e Monti, e Maroni che dice fatwa contro di me, l'abbiamo sentito poco fa, e Monti chiede mozione per l'Unione Europea, la Merkel, l'Italia ce la farà, questo il titolo di Repubblica. C'è anche un titolo dedicato al calcio naturalmente e alla morte di Carlo Fruttero, addio allo scrittore Carlo Fruttero, creò la donna della domenica, aveva 85 anni, ironico e caustico, era il gemello letterario di Lucentini. La stampa titola altri due morti, si cerca ancora, si aggrava la posizione del comandante, non lanciò l'allarme, si rifiutò di tornare a bordo. I servizi sono un racconto di un figlio di una delle due vittime, di una delle due vittime recuperate poco fa. Ho salvato tutti meno papà, il figlio della vittima sarda, l'ho visto sparire nel buio. Il racconto del commissario eroe, del quale lungamente abbiamo parlato. Tutti gli errori di quella notte, la compagnia che dice che navigavano troppo vicini alla costa, il ministro Clini che dice e adesso cambiare le rotte, basta colossi del mare nelle aree pregiate. Anche qua a centro pagina una Merkel che dice che l'Italia ce la farà, vertice coi leader dei partiti, Monti chiede più forza per dare battaglia in Europa, e un'intervista con Casini che dice che sulla legge elettorale l'intesa è possibile, oggi da Monti con Alfano e Bersani è normale, siamo la maggioranza politica. E poi intervista a Pier Silvio Berlusconi di Luca Ubaldeschi, Mediaset sia tutelata, sulle frequenze digitali l'asta iniqua, spero che Passera faccia la scelta giusta. Commento invece per quanto riguarda la morte di Fruttero è a firma di Massimo Gramellini, che lo conosceva bene, tanto che recentemente avevano scritto un libro sui 150 anni dell'Unità d'Italia insieme. Il Messaggero, angoscia per gli ultimi dispersi, ancora 17 nella nave, trovati altri due corpi, un italiano e uno spagnolo, i soccorritori cercano cabina per cabina, la Costa parla di errori del capitano, il commento a firma di Sergio Givone, quando l'incoscienza è un delitto, e poi il racconto dell'inviato che parla dell'incubo dei serbatoi pieni ancora di carburante, e il motivo probabilmente per il quale alla fine il comandante della nave è stato arrestato, è la storia, dice il comandante, voleva fuggire dopo la tragedia, anche qua pezzo a firma di un inviato del Messaggero in zona. Il campionato, qua troviamo, dopo aver tanto parlato di derby su un quotidiano romano, troviamo storie dalle due squadre romane, appunto, risale la Lazio col gol gioiello di Klose e De Rossi alla Roma dice vorrei restare, quindi prosegue la telenovela di De Rossi. E addio anche, c'è anche l'addio a Fruttero, maestro dell'ironia. Il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, un numero freddo, e però si parla, ci sono storie molto interessanti, come la stretta finale sulla concorrenza dalla benzina ai servizi pubblici, ecco cosa cambierà per le famiglie. Revisione dei criteri per le tariffe agevolate di energia e gas, abolizione delle tariffe minime e massime per i professionisti, libertà nella scelta dell'assicurazione, i servizi di notifica delle poste aperti ad altri soggetti, aumento del numero delle farmacie, gare per la gestione dei treni regionali, doppio criterio per i risarcimenti RC auto, vendita prodotti non oil e stazioni plurimarca per i carburanti e incremento del numero delle licenze di taxi. A centropagina il Governance Poll 2011, il gradimento di sindaci e amministratori. Tra i governatori, primo Zaia, sale Vendola, giù Formigoni, è l'indagine IPR per il Sole 24 Ore, e il punto è a firma di Stefano Folli, com'è difficile mantenere le promesse. Si parla anche di lotta all'evasione, comuni avanti piano, scrive Giovanni Parente, contro la recessione l'Europa punta sulle PMI, pezzo a firma di Chiara Bussi. Veniamo a dare anche un'occhiata a quello che troviamo sui quotidiani internazionali. Vogliamo partire da storia interessante che arriva dalla Gran Bretagna, ed è una notizia che arriverà oggi, nel senso che l'annuncio del vice premier inglese Nick Clegg dovrebbe arrivare oggi. Che cosa succede? Che c'è la catena di negozi John Lewis che ha dato il via libera, o meglio ha adottato un modello che prevede l'azionariato dei dipendenti. Ebbene, che cosa vuole fare il governo inglese per incrementare la partecipazione dei dipendenti alle aziende? Propone dei tagli di tasse, una vicenda della quale sicuramente in Europa si discuterà ad un certo punto, o almeno aprirà dibattito nei singoli paesi. Che cosa proporrà Clegg? Tax breaks, ossia riduzioni di tasse, insomma deduzioni, detrazioni, se le aziende offriranno azioni ai loro impiegati, questo a quanto pare è già un progetto del governo che verrà presentato oggi proprio dal vice premier Nick Clegg. Interessante l'editoriale del New York Times, che è dedicato, già che siamo in temi di economia, alle vicende europee. Il titolo, più che un editoriale, una sorta di analisi, una sorta di inchiesta. Il titolo è: mentre le riforme faticano in Grecia, l'Europa sta cercando di limitare i danni, e si parla delle difficoltà greche, così come si fa questa mattina sul Financial Times, dove si scrive che i creditori della Grecia stanno valutando la possibilità di chiedere ai leader di Francia e Germania di intervenire per sbloccare le negoziazioni sull'ammontare delle perdite che banche e gli altri creditori dovrebbero assumersi. Il ministro degli esteri Guido Westerwelle, tedesco, è volato tra l'altro ad Atene domenica per partecipare alle negoziazioni appunto sul coinvolgimento del settore privato. Questo un quadro abbastanza generale, naturalmente, dalle prime pagine dei quotidiani italiani e da alcuni quotidiani esteri. Sono quotidiani esteri, naturalmente, ve lo specifichiamo, che dedicano amplissimo spazio alla vicenda della Costa Concordia, il naufragio della Costa Concordia, ma insomma senza novità sostanziali rispetto a quelle che abbiamo visto sui quotidiani italiani. Prima edizione. 6:35 minuti e 40 secondi, come sapete oggi scatta la congestion charge alla milanese, nella cosiddetta area C, è di questo che ci parla Italia in controluce. Italia in controluce. Oggi è il 16 di gennaio, vi parla Daniele Biacchessi. Tutto ormai pronto a Milano per la partenza della cosiddetta area C, la congestion charge sul modello di mobilità applicato ormai da molte città europee, sostituirà l'EcoPass. Tra pochi minuti dunque, ed esattamente alle 7.30, si sperimenta una soluzione importante e controversa per gestire la mobilità nelle città. Il reportage di Cristina Carpinelli. L'area C è una zona a traffico limitato nata per contenere l'ingresso in aree sensibili della città. Si tratta di un'area che riguarda la cerchia dei Bastioni. Per accedervi bisognerà pagare 5 euro in ingresso. Il ticket ha validità giornaliera. Non potranno entrarvi diesel fino all'euro 3 compreso. Si tratta di circa 2.500 auto al giorno e rappresenta il 3,9% delle auto che entrano nell'area da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Fino al 31 dicembre 2012 però gli euro diesel 3 residenti dell'area C saranno derogati, ma pagheranno comunque il ticket in ingresso. I residenti avranno 40 accessi gratuiti. Il numero è stato calcolato in base a uno studio AMAT tramite telecamere dell'EcoPass e si è visto che il 50% dei veicoli dei residenti è passato dai varchi negli orari di attivazione meno di 40 giorni in un anno. 40 accessi dovrebbero, secondo la giunta Pisapia, garantire dunque gratuità al 50% dei residenti. Dal 41esimo ingresso i residenti dell'area C avranno una tariffa agevolata di 2 euro. Per chi lavora nel settore del trasporto poi c'è una tariffa agevolata. I veicoli di servizio possono dunque pagare 3 euro oppure 5 euro comprensivi di 2 ore di sosta gratuita sulle strisce blu. Ricapitolando, ci sono quindi 5 tipi di titoli di ingresso: giornaliero costa 5 euro, veicolo residente 2 euro, veicolo di servizio 3 euro o 5 euro come detto prima. C'è il multiplo giornaliero da 30 e 60 euro con credito a scalare automatico anche per giorni non consecutivi. I ticket si comprano nelle tabaccherie, nelle edicole, negli ATM point, nei parcometri, tramite Rido o con carta di credito sul sito www.areac.it o chiamando il numero 800-437-437. Non tutti i metodi di acquisto permettono l'attivazione immediata. Per le tessere a scalare e i titoli cartacei, l'attivazione può avvenire attraverso un numero SMS 339-9940-437 oppure sul web, sempre sul sito areac.it o chiamando lo stesso numero verde di prima, cioè 800-437-437. Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Minuti e 16 secondi. Veniamo dunque agli aggiornamenti per quanto riguarda il naufragio all'isola del Giglio. Facciamo il punto con Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa. Buongiorno Simone, a te e agli ascoltatori. Iniziamo dagli aggiornamenti proprio di questi ultimi minuti. Purtroppo sono brutte notizie. I vigili del fuoco che continuano le ricerche dei dispersi hanno lavorato tutta la notte sul relitto della Costa Concordia, hanno ritrovato a bordo della nave il cadavere di un uomo. Si tratta della sesta vittima accertata del naufragio. Il corpo si trovava nel secondo ponte, in una parte non invasa dall'acqua, aveva il giubbotto salvagente ed era un passeggero. Al momento non si conoscono altri particolari. Con questa vittima dunque il bilancio sale a 6 morti accertati e a questo punto 16 dispersi. Si intensificano le ricerche proprio in queste ore perché è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e del mare. Intanto la scatola nera, per quanto riguarda le indagini, comincia a rivelare le sue verità, prendono corpo le ipotesi investigative, si parla di un favore, una manovra maldestra compiuta dal comandante per avvicinarsi all'isola del Giglio, una manovra in omaggio al maître e a un vecchio ufficiale della nave originari dell'isola. All'origine del naufragio dunque ci sarebbe questa enorme leggerezza che emergerebbe dalle indagini della procura di Grosseto, indagini, lo ricordiamo, in seguito alle quali il comandante della nave Francesco Schettino è stato fermato. Di manovra imprudente ha parlato anche il procuratore capo di Grosseto, detto Verusio. Sentiamo al microfono del nostro Paolo Panceri. il comandante ha fatto sicuramente una manovra scellerata, perché era sicuramente una manovra che non avrebbe potuto e dovuto fare, molto imprudente. Pare che fa parte della consuetudine marinara, quella del, lo chiamano l'inchino, che la nave fa al porto che attraversa e che dovrebbe passare vicino al porto e fare dei suoni di sirena per salutare il porto che si attraversa, ma in questa circostanza si è avvicinato troppo all'isola del Giglio, perché quello è un fondale molto pericoloso, perché è un fondale scosceso, non è un fondale di sabbia, è un fondale scoglioso, la nave con gli strumenti che ha non poteva proprio inoltrarsi in quel tratto di mare così pericoloso. Il comandante dice invece che lo scoglio non era segnalato e che non doveva essere lì. Dice delle sciocchezze. Per quanto riguarda un esame sommario di quello che vi dice la scatola nera, quali conclusioni parziali ne avete tratto per adesso? Guardi, fino a che non abbiamo in questi tracciati, non sono in grado di confermare, sono ipotesi quelle che stiamo facendo sulla base delle testimonianze che abbiamo raccolto finora. Però una ricostruzione precisa e definitiva la possiamo avere soltanto quando abbiamo questi tracciati anche satellitari. Contro il comandante, lo ricordiamo, sono state mosse gravi accuse, tra le quali quella di non aver neanche lanciato subito il Mayday. Sarebbero stati infatti i passeggeri a chiamare direttamente i carabinieri. Questa mattina è prevista una conferenza stampa della Costa Crociere, che ieri sera in una nota ha iniziato in qualche modo a prendere le distanze, a scaricare il comandante parlando di errori di giudizio da parte sua, e ha respinto le accuse mosse da alcuni passeggeri. Leggere accuse come quella di non avere giubbotti di salvataggio sufficienti per tutti i passeggeri. Nel pomeriggio invece a Livorno ci sarà un vertice con il ministro Clini sui rischi ambientali legati al naufragio. Per ora è tutto. E grazie dunque a Maria Luisa Pezzali per questi aggiornamenti. Noi adesso parliamo del come mai una nave costruita con tutti i più sofisticati e moderni sistemi di sicurezza è affondata in così poco tempo. Sempre al microfono di Paolo Panceri, come avete sentito, anche autore dell'intervista al procuratore, Carlo Podenzana Bombino, docente di architettura della nave statica navale all'Università di Genova. Il sistema di compartimentazione c'è assolutamente secondo le regole più recenti, perché è una nave costruita con le regole più moderne. Queste norme prevedono naturalmente dei casi di falla entro certi limiti, perché naturalmente non si può prevedere qualunque situazione e far fronte a qualunque situazione. Le normative fanno riferimento a certe situazioni limite, statisticamente considerate con una probabilità così bassa da poter essere accettata. Da quello che si è capito, questa nave ha avuto uno squarcio molto superiore a quello che è previsto dalle normative. Quindi siamo in un caso in cui si è andati a capitare in una situazione oltre quelle che sono fronteggiate dalle compartimentazioni che sono regolate dalle attuali normative. Purtroppo noi dobbiamo sempre far riferimento a situazioni che non sono prevedibili a priori, bisogna fare una valutazione di tipo statistico e decidere di accettare il rischio di superare certe condizioni che decidiamo essere talmente poco frequenti da poter essere accettate. Se si va oltre certi limiti, purtroppo bisogna accettare che la nave si perda. Ed è questo il caso che è successo? Io, da quello che posso aver visto, le dimensioni della falla che vengono documentate dai giornali, dalle televisioni, credo che siamo proprio in una situazione di questo genere. Quindi era impossibile che la nave non si rovesciasse? Direi proprio di sì, nel senso che è un caso che va oltre a quelli che la compartimentazione è progettata per fronteggiare. Prima edizione. 6:46 minuti e 38 secondi, adesso ci occupiamo di calcio e lo facciamo con il nostro Dario Ceccarelli per commentare un lunedì che vede evidentemente in primo piano il derby con la vittoria dell'Inter. A questo punto rilancio direi completo. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è un grande rilancio dell'Inter che, non dimentichiamo, fino a poco tempo fa si parlava addirittura, attenzione, che potrebbe attenzione alla Serie B, eccetera, eccetera. Ieri è stata la partita dell'Inter, nel senso che l'Inter ha giocato la partita migliore che poteva fare, prontissima in difesa, non ha perso un contrasto, è sempre stata molto concentrata e poi ha ritrovato questo Milito, che nell'unica vera occasione in cui c'è stato un bellissimo lancio di Zanetti, liscio di Abate, in quell'attimo Milito è tornato a essere il Milito del triplete, cioè quello del ha fatto quel gol in diagonale che è proprio nelle sue corde. Ecco, però quello che ha colpito, come insomma si stava un po' parlando poco fa, è il fatto che il Milan non è mai stato in partita veramente. Perché abbiamo visto Ibrahimovic che non aveva la solita cattiveria negli occhi, Boateng schierato in mediana non è quello che è trequartista, il papero, il famoso patto che ha dato vita a una settimana molto complicata dal punto di vista del mercato e di tutto il resto. Forse è stato il più pericoloso del Milan, a dirla tutta, però non è mai stato veramente determinante o incisivo, e quindi così, è un Milan che è un po' pallido. Ecco. Juve prima in classifica, molto rapidamente Dario, naturalmente è un po' presto per dire se ha lanciato un'opa sul campionato. Ma la Juventus anche ieri ha avuto i suoi qualche problema, perché questo pareggio col Cagliari non è che ne esca proprio bene, però può anche darsi che sia così. Ricordiamo una cosa, che la Juventus non gioca la Champions e quindi poi potrà sfruttare meglio le pause che le altre squadre dovranno affrontare nella fase successiva del campionato. Comunque questo dell'Inter è stata una bellissima vittoria, va dato a Ranieri atto, quello che è giusto dare a Ranieri, perché ha riportato al derby la vittoria nel derby dopo due anni di vacche magre, perché insomma l'Inter è venuta a un periodo difficile, e poi ha dato soprattutto la consapevolezza dei propri mezzi. Si è rivista quell'Inter dove ognuno sapeva fare la sua parte, quindi insomma ha ridato fiducia all'intero ambiente che era stato devastato da un anno e mezzo di depressione. Grazie anche a Dario Ceccarelli, e che lasciamo al lavoro dei giornali radio. Muto The Artist, il dramma familiare The Descendants, Paradiso Amaro in italiano, hanno vinto i premi più importanti, il Golden Globe, uno dei riconoscimenti più importanti per il cinema e la televisione, considerato una sorta di assaggio degli Oscar, come da previsione appunto trionfo per The Artist con tre premi, tra cui quello per la migliore commedia film musicale, mentre per The Descendants due premi, miglior film drammatico e miglior attore protagonista, ovvero George Clooney. Miglior regista Martin Scorsese per Hugo, il premio alla carriera 2012, il Cecil B. DeMille Award è andato invece a Morgan Freeman, mentre Meryl Streep per la sua Lady di Ferro conquista il premio come miglior attrice drammatica. Ed è tutto per prima edizione, un ringraziamento a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia e anche Adriana Fracchia per l'aiuto per quanto riguarda la parte spettacoli. Ritroviamo tra poco con il giornale radio, adesso la linea va ad una nuova trasmissione, il Gazzettino del 2015.